3, 2, 1. Puntata numero 7 dell'incredulo, quello a cui non la si fa, quello che non si frega tutta sta storia e l'energia e medita e il caldo. Ma dov'è tutta questa energia che qui fa un freddo birbone? Però lo sappiamo, siccome la magia di ieri è la scienza di oggi, l'entanglement delle particelle, i cabalisti lo avevano scoperto già nel Medioevo, l'ego di Freud sembrava una cosa da sballati di testa e oggi è considerata la base delle neuroscienze, pertanto vale la pena di saperne di più. Per saperne di più tocca però chiedere a chi ne sa di più, e in questo caso ci rivolgiamo alla capitale, ci rivolgiamo alla città che con la sua cupola vecchissima fa ombra o illumina, dipende da che punto di vista la guardiamo, l'intera regione, forse l'intero paese, e dalla capitale e dagli studi più bizzarri e più, chiamiamoli, esoterico-spirituali, abbiamo Elisa! Buongiorno, buongiorno da questa giornata direi molto molto fredda. C'è la neve da te? Grazie a Dio, qui nel fondo valle la neve ancora non è arrivata, però sulle colline c'è e chi abita lì c'ha un po' di problemi. Eh sì, noi non siamo purtroppo, diciamo, regioni abituate tanto alla neve, tranne che magari nelle montagne dell'Appennino, però noi siamo poco abituati alla neve. Elisa, di che parliamo oggi? Visto questo freddo, ci dai una ricetta del vin brûlé? Sarebbe carino, magari la prossima volta me la studio una bella ricetta del vin brûlé con qualche spezia strana. Oggi vi voglio parlare di una cosa molto conosciuta e anche molto giudicata, è l'omeopatia. L'omeopatia, ma va, ma è quella cosa che dice ti prendi questa sostanza, sta nell'acqua, pensi all'acqua, sì. Ma va, Elisa, ma che omeopatia? E invece l'omeopatia funziona, funziona e funziona tantissimo. Se ti ricordi, nelle prime puntate avevamo parlato di come agiscono i fiori, no? Sì. Sul fatto che loro portano il positivo, quindi portano la parte positiva dove c'è un elemento negativo. E poi, parlando della memoria dell'acqua, vi avevo anche detto che l'acqua trasporta con sé parti, ricordi delle cellule con cui, o dei fiori o delle piante con cui è stato in contatto. Bene, l'omeopatia è un po' il mix dei due, solo che al posto di tirarti fuori il positivo, lei ti tira fuori il negativo, nel senso che ti fa peggiorare, quindi ti aumenta i sintomi o che ti causano la malattia, per far sì che il tuo corpo reagisca e tiri fuori la forza per poter contrastare la malattia. È una cosa strana, Ma che differenza c'è con la medicina tradizionale, con le pillole e le pasticche che si comprano in farmacia? L'omeopatia può essere usata sia per sintomi acuti, quindi raffreddore, mal di gola, influenza, quindi nell'insorgere della malattia, ma ha molto molto più efficacia nelle malattie croniche. Quelle che di solito con la medicina tradizionale ti curano alleviando i sintomi. La differenza fondamentale è che in questo caso non si vanno a contrastare i sintomi come nella medicina allopatica. Quindi non si va a oscurare quello che si prova, facendo sì che il nostro corpo dica di stare bene, ma si va a ingerire delle sostanze, piante, funghi, veleno di vipera per esempio, un veleno di api, che fanno sì che il tuo corpo lì per lì stia peggio. Infatti spesso si parla di peggioramento omeopatico, quindi quando i sintomi aumentano tantissimo, e aggravando questa situazione il tuo corpo trova dentro di sé le risorse per reagire e per guarire dalla malattia, ma ci guarisce in toto. Quindi a differenza della medicina allopatica che va a oscurare i sintomi, poi quando magari smetti dopo un pochino ci ricaschi, perché comunque sia il tuo corpo non è guarito con la medicina. Poi ci hanno da vendere le medicine. Esatto. In questo caso invece si va a far sì che il tuo corpo reagisca e quindi stia bene da solo. Ma nelle medicine che si comprano in farmacia c'è il bugiardino dentro la scatolina e c'è una lista gigantesca di sostanze con quei nomi un po' latini, un po' inglesi, un po' commerciali, non si è capito bene, e quella è roba che conoscono i farmacologi. E dentro alle medicine omeopatiche che c'è? Niente, assolutamente niente, perché tieni conto che la medicina omeopatica non è sperimentata, viene sperimentata sul soggetto sano, quindi non hai all'interno nessuna controindicazione, perché nessuno ha mai sperimentato la medicina omeopatica, nemmeno su, ora io non sono molto d'accordo, però neanche sull'animale, quindi vengono sperimentate direttamente sull'uomo, quindi non c'è nessun bugiardino dentro. Le case farmaceutiche fanno delle supposte ricerche o delle supposte investigazioni mediche per poi dire che la loro medicina funziona oppure no. Sappiamo che spesso queste indagini o studi scientifici sono in qualche modo alterati o edulcorati o non proprio così galileiani, però quelle medicine in qualche modo il Ministero della Sanità le ha approvate. Per quello che riguarda l'omeopatia, non essendo sperimentata su nessuno, ma come si fa a sapere che funziona? In Italia esiste, come sai, ancora una lobby molto molto ampia, per cui fino a pochi anni fa il medico omeopata non si poteva nemmeno laureare o essere considerato medico omeopata in Italia. Cosa invece è differenza fra la Francia e la Germania, perché soprattutto in Germania è nata l'omeopatia, fondatore suo è appunto un medico tedesco che, fai conto, nell'epoca del dottor Bach, Hahnemann, lui si staccò dalla medicina tradizionale e iniziò a studiare l'omeopatia. Come si fa a sapere che funziona? È una bella domanda, secondo me bisogna provarla, e l'unica maniera per provarla è provarla. Fino ad oggi gli unici casi che ci sono, e vabbè, i prontuari di omeopatia letti, sono di medicine che sono state testate su l'uomo sano e poi l'uomo malato, per vedere se queste medicine funzionavano oppure facevano male addirittura alla persona sana, perché in realtà se tu prendi un medicinale omeopatico quando sei pienamente sano non ti fa niente, no? Sì. Cosa che magari una medicina allopatica, se la prende a sano, potresti comunque avere delle controindicazioni. Come minimo da dipendenza. Esatto. Ci sono solo studi fatti su casi veri, quindi su persone che hanno provato l'omeopatia e animali sui quali è stata testata l'omeopatia, perché oggigiorno è molto molto efficace l'omeopatia anche fra gli animali. Per che tipo di malattie ci si rivolge all'omeopatia? Si è parlato di peggioramenti e poi miglioramenti, quindi ci si rivolge all'omeopata per malattie gravi, come, vabbè, non le nominiamo, oppure anche solo un raffreddore è trattabile con l'omeopatia? È trattabile tutto, diciamo che si hanno sicuramente molti molti più risultati nelle malattie croniche, nell'influenza, nel raffreddore. È chiaro, uno può prendere il medicinale omeopatico, bisogna che un pochino sappia cosa prende, perché difficilmente, almeno che uno non vada in una farmacia specializzata in omeopatia, ti riescono a sapere indicare, insomma più facile ti hanno le più famose medicine per l'influenza, dall'aspirina alla tachipirina, eccetera. Però ci sono medicinali che aiutano tantissimo, sia sul raffreddore, sugli otiti, sul mal di gola, sull'abbassare la febbre, sui dolori articolari. Ora non mi viene in mente altro, se ti viene in mente qualche altra cosa dei mali di stagione, dimmelo e magari ci ragioniamo. Comunque lavorano sicuramente sulla fase acuta benino. Sulla fase cronica invece arrivano dove le medicine tradizionali spesso non arrivano. Per quindi esempio? Mali della nostra epoca sono sicuramente gastriti, coliti, come sai il cervello e l'intestino e la pelle sono strettamente collegati perché nascono dalla stessa parte dell'embrione. Per cui problemi psichici c'è chi li butta nello stomaco, c'è chi li butta nell'intestino, c'è chi li va a buttare nella pelle. Quindi tipiche malattie che da cui la medicina tradizionale si ferma è curare una colite, curare un'infezione intestinale, spesso dovuta alla candida, che è quel fungo che noi tutti abbiamo all'interno del nostro corpo, che però quando c'è uno squilibrio all'interno della bocca, dell'apparato genitale, dell'apparato intestinale, forma quella mucosa giallina e fa male. Gastrite, che come si sa la gastrite per la maggior parte dei casi è dovuta a disturbi psicosomatici. L'omeopatia lì arriva molto molto bene perché va a lavorare, e soprattutto se si lavora poi con un omeopata unicista, che è una specie di, diciamo, di psicoterapeuta dell'omeopatia, perché ti individua da sintomi psicologici, fisici, come te ti rapporti a questo mondo, sia a livello al mondo reale che al mondo spirituale, individua il tuo rimedio unico che va a curare tutti i sintomi. E alla lunga, quindi non sperate di guarire in una settimana, ma ci vogliono 2 o 3 mesi, piano piano si hanno dei netti miglioramenti e il corpo migliora. Spesso però la medicina tradizionale su queste cose si ferma, perché sulle malattie, chiamiamole così, psicosomatiche, o come li vuole chiamare la nuova psicologia, relative al sistema psicologico neuroendocrino immunologico, che quindi vanno a coprire tutti i livelli di una persona, la medicina tradizionale arriva a coprire solo i sintomi e non a risolverti il problema, cosa invece che l'omeopatia fa. La medicina tradizionale fa finta di, almeno ufficialmente, di non sapere che cervello e corpo sono collegati, ovvio, il cervello sta dentro il corpo, ma proprio certi meccanismi che sono dentro a questo organo barra muscolo in qualche modo poi influenzano il corpo e le malattie che si prende oppure dalle malattie che non si prende. E almeno ufficialmente ammette solo che esiste l'effetto placebo. L'omeopatia rischia di essere un'illusione collettiva, di essere un effetto placebo per hippie e sciroccati di varia natura e di varia estrazione folcloristica? A oggigiorno sì, è considerata tantissimo ancora una medicina che non risolve niente, ma te prendi queste granulini che sono acqua e zucchero, appunto, e che quindi per effetto placebo ti fanno stare bene. In realtà dietro all'omeopatia ci sta tanto, ci stanno studi. Ora, considerate che uno per diventare medico omeopatico deve fare 5 anni di medicina minimo, una specializzazione in una medicina che generica, insomma, quindi quello che è il medico di famiglia, e poi 3 anni di specializzazione in medicina omeopatica. Quindi comunque sia ci sono delle fondamenta dietro, quindi chi ti prescrive la medicina appunto è un medico, non è un hippie o un santone. Va bene. O magari una floriterapista, come posso essere io, che non ho fatto studi di medicina. E stessa cosa vale per la medicina applicata alla veterinaria. Devono prima laurearsi in veterinaria per poi accedere alla scuola specialistica di omeopatia. Questo significa che, per quanto poco a oggi il medico sappia della psiche, perché fanno molti meno esami di psicologia di quanto possa fare uno scienziato motorio, che comunque fa sempre parte della branca di medicina, il medico omeopatico, soprattutto il medico unicista, unisce psiche e corpo, quindi sicuramente può sembrare un effetto placebo a chi ancora oggi non considera unite queste due parti, ma in realtà l'omeopatia ha veramente dei grandi risultati e si vede soprattutto sugli animali, perché come ti dicevo anche per i fiori, loro non hanno idea di che cosa prendono. Loro prendono queste goccioline che magari gli fanno anche un po' schifo, però i miglioramenti si vedono. Io li sto vedendo, li ho visti sulla mia canina. Lei ha una reazione allergica a questo mondo, come ti dicevo l'altra volta, per cui ha avuto per anni e anni intolleranze alimentari, dermatiti forti, soprattutto nel periodo della primavera sfociavano, un'otite che non passava con nessun tipo di farmaco. L'omeopatia innanzitutto gli ha fatto passare ogni sintomo fisico, ma l'ha resa anche molto più serena e molto più felice di vivere, diciamo, con buona parte di questo mondo. E stessa cosa la sta facendo con l'altro cane. L'altro cane ha, essendo stato diciamo almeno 5 anni in canile, ha dei comportamenti ossessivi, per cui appena arrivato in casa non riusciva a stare fermo, si muoveva continuamente, girava in circolo, non trovava mai pace. Adesso è sotto cura omeopatica da un paio di mesi e devo dire che riesce a rilassarsi, eppure non sa cosa prende. Quindi, e gli effetti si vedono tantissimo su di loro, magari su di noi, per chi è un animo un pochino più sensibile, riesce a cogliere la bellezza di quello che ci sta dietro l'omeopatia. Elisa, una curiosità: sapevo che il veleno del cobra viene usato nelle corse dei cavalli come dopante, ma il veleno di vipera sugli esseri umani? È praticamente l'opposto di quello che farebbe il veleno di vipera, quindi per le tromboflebiti, soprattutto degli arti inferiori, capillari e vene che scoppiano, edema delle caviglie e quindi gambe pesanti, doloranti, crampi alle gambe, quindi tutta la parte di vene capillari. Ecco a che cosa serve il veleno di vipera in omeopatia. E praticamente li disinfiammerebbe? Sarebbe una prevenzione, diciamo, contro un'eventuale flebite, contro i capillari, insomma, le vene varicose, i capillari che si spezzano, tutte queste cose che a noi donne ci piace tantissimo, queste creme contro i capillari. Ecco, il veleno di vipera spalmato ben bene e serve a quello. Quindi anche il veleno di vipera in fondo è un dopante per donne. Esatto, per la bellezza delle gambe delle donne. Elisa, per chi si è accorto che molte delle medicine vendute in farmacia in qualche modo su di lui non funzionano e quindi fosse intenzionato a guardarsi intorno e a rivolgersi a qualcun altro, come si fa a trovare un medico omeopata? C'è sicuramente un sito internet in cui ti dice tutti gli omeopati, sia veterinari che, diciamo, umani, divisi per regione. Mi pare anche il sito della Guna, che è una delle maggiori case produttrici di omeopatia italiana, abbia un elenco aggiornato e, se non mi ricordo male, a primavera dovrebbero fare una giornata gratuita con l'omeopata. Quindi se guardate sul sito trovate la convenzione e quindi il primo consulto è gratis. Altrimenti sempre utile è il passaparola, quindi se sapete di qualcuno che è stato da un omeopata o conoscete qualcuno che ha già usato questa medicina sia per sé che per gli animali, chiedere un consiglio. E le medicine omeopatiche dove le vendono? Dove si trovano? Si va dai panca bestia, perché se vado in farmacia con la ricetta dell'omeopatia magari il farmacista tenta di convincermi, mi dà una cosa per un'altra, che ne so. Dove si trovano? In farmacia, non serve la ricetta medica per comprarli. tranne alcuni, però sono venduti in farmacia in quanto medicinali. Quindi c'è proprio la certificazione anche da questo punto di vista, ossia quel tipo di prodotti comunque si acquistano in farmacia, dove si acquistano anche gli altri più comunemente titolati. Esatto, è sempre lì che si vanno a acquistare le medicine. Ci sono le farmacie specializzate anche in omeopatia, quindi è più facile trovare prodotti un po' più diversi da quelli da banco, perché poi nelle farmacie normali trovate un reparto omeopatia o medicine da banco in cui, appunto, vi dicevo, ci sono la maggior parte delle medicine per i sintomi acuti. E poi quelle più specializzate hanno invece anche le varie medicine per le fasi più croniche. Sono curioso di farmi una bella maschera di bellezza con il veleno di vipera, chissà poi divento con una faccia come Medusa. Elisa, grazie delle tue preziosissime informazioni che anche oggi ci hai dato a me, hai dato agli ascoltatori di Radio Big World. Grazie a te per avermi ascoltato anche oggi e un ringraziamento a tutti gli ascoltatori di Radio Big World e alla prossima settimana. Olé!